Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta oggi da Rimini, dove si è aperta questa mattina la 18ª edizione dell'IT Forum. Come ogni anno, anche quest'anno, Radio 24, come già questa mattina Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone sono presenti e siamo presenti all'IT Forum di Rimini. Cos'è? È la, diciamola male, la fiera di tutti quelli che investono online, ma non solo, è la fiera dell'information technology applicata ai mercati finanziari, al risparmio gestito e quindi anche alla gestione degli investimenti. Si parla molto in queste giornate e anche domani di robo advisor, cioè il robot, l'intelligenza artificiale che decide dove investire. Il trading automatico, ma anche il fintech, parola molto evocata quanto poco capita, e anche il crowdfunding, ossia la possibilità di investire raccogliendo fondi di chi crede nel tuo progetto. Ne parleremo in apertura, poi avremo anche Matteo Arpe nel doppio ruolo di ex banchiere classico e attuale finanziatore e ha lanciato una banca che si chiama This is not a bank. Questa non è una banca proprio perché opera in maniera e con un canale completamente digitale. Poi parleremo invece, così vengo al resto delle notizie di questa giornata, anche del dato di oggi sulla occupazione / disoccupazione. Il dato è quello dell'INPS. Allora, la fotografia è molto facile, al di là delle polemiche. Nei primi 3 mesi del 2017 si sono attivati 400.000 contratti a tempo indeterminato, per la precisione 398.000. che sono in calo come contratti a tempo determinato del 7,4% sullo stesso periodo, ma la differenza tra quelli attivati e quelli chiusi è ancora positiva, nel senso che ne sono stati chiusi 381.000, quindi resta una differenza positiva di 17.000 contratti in più nei primi 3 mesi a tempo indeterminato. Il problema è che il saldo era ben più alto nei primi 3 mesi del 2016, cioè la differenza tra contratti chiusi e contratti aperti era positiva per 41.000 contratti, e soprattutto nei primi 3 mesi del 2015, quando erano entrati in vigore gli sgravi contributivi fino a 8.000 euro all'anno per ogni assunzione a tempo indeterminato, quando si registrarono 214.000. Quindi non è vero, come scrivono alcuni, che sono calati i contratti a tempo indeterminato. Il saldo resta positivo, è che è un saldo ben più piccolo di quello registrato nei primi 3 mesi del 2016 e soprattutto nei primi 3 mesi del 2015, a dire che si sta riducendo tutto l'effetto, sta diventando, adesso vedremo il prossimo trimestre, ma sempre più risicata la differenza tra contratti nuovi, 400.000 in questo caso, 398, e contratti chiusi, 381.000. Anche di questo parleremo nel corso del programma. Segnalo che oggi, per quello che riguarda i mercati finanziari, visto che siamo qui all'IT Forum, i mercati sono poco mossi a Milano come indice invariato, Parigi meno 0,60, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,90, Dow Jones più 0,20%. L'euro è stabilmente sopra quota 1,11, 1,12,62. Tra i titoli oggi bene Banco BPM più 2%, IUX Net A Porter più 1,60, Finecobank più 1,5, Ferrari più 1,1 come Italgas e Generali. Lo 0,70 lo guadagna Poste Italiane. Fronte opposto Telecom meno 3, Fiat Chrysler meno 2,80, anche di questo parleremo, Biper Bank meno 1,70, Saipem meno 1,30, Prismian meno 1,14%. Per quello che riguarda Telecom, va detto che sono anche alcune prese di beneficio, perché il titolo aveva guadagnato oltre il 10% da inizio mese, e tra l'altro comunque resta l'incertezza su quello che deciderà l'antitrust europeo sulla posizione in Telecom di Vivendi. Invece per quello che riguarda Fiat, qui pesa la procedura dell'Unione Europea contro Fiat, ha aperto una procedura di infrazione sulle emissioni, e ha chiesto all'Italia, lo ha fatto ieri, di dare informazioni sui software, motore e sui rimedi utilizzati, altrimenti c'è rischio sanzioni. ma soprattutto oggi, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, anche il Dipartimento di Giustizia americano sarebbe pronto a far causa a Fiat Chrysler se i negoziati in corso falliranno, negoziati sulle accuse appunto di violazione delle normative sulle emissioni. Il titolo appunto perde il 2,85%, negativa anche Biper Banca dell'1,80%, Saipem dell'1,30%, Prismian dell'1,1% come ST Micro Electronics. Di questo parleremo. 349-238-6666 è il numero per WhatsApp ed SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo da, come sempre, dalle notizie di carattere internazionale. Il Giappone oggi vede crescere il suo PIL leggermente meglio delle attese, dello 0,3% atteso, l'economia nipponica è cresciuta invece dello 0,5% su base annua, quindi rispetto ai primi tre mesi del 2016 la crescita del 2,2%. La borsa brasiliana invece è in caduta quasi libera, diciamo, l'indice è crollato di quasi il 10%. Adesso perde un po' più dell'8, dopo che il governo brasiliano viene coinvolto in un nuovo scandalo tangenti che questa volta mette sotto accusa il presidente Michel Temer. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni, malissimo i grossi titoli brasiliani, Petrobras, che è la società, la compagnia petrolifera brasiliana, perde, è arrivata a perdere il 20%, il Banco do Brasil oltre il 20%, il 23%. Andiamo avanti con le altre notizie. Al di là della vicina Trump, avete già avuto aggiornamenti dai nostri GR24, il contrattacco di Trump, non c'è stata nessuna collusione, insomma, il rischio, aleggia ancora il rischio di impeachment, è spuntato un audio del senatore Gop, sostanzialmente di leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, secondo quale, quanto riporta il Washington Post, ha detto: penso che Putin paghi Trump, una frase che sarebbe stata anche registrata, ma il senatore Kevin McCarthy si è giustificato, era una battuta di cattivo gusto, nessuno può pensare che sia vera. Al di là di questo invece, oggi l'altra notizia che riguarda l'economia è la maxi multa da 110 milioni di euro che l'antitrust europeo ha deciso di infliggere a Facebook per aver fornito informazioni fuorvianti nel momento dell'acquisto di WhatsApp, nel senso che nel 2014 Facebook, quando acquistò WhatsApp, aveva assicurato alla Commissione Europea di non poter collegare gli account di Facebook con quelli di WhatsApp, cosa che invece è stata realizzata nel 2016. E questo, ha detto il commissario alla concorrenza europea Margrethe Vestager, è un chiaro segnale alla società che devono rispettare le regole europee, incluso l'obbligo di fornire le informazioni corrette. Facebook risponde: abbiamo agito in buona fede, abbiamo cercato di fornire informazioni accurate ogni volta, gli errori che abbiamo fatto nel 2014 non erano intenzionali. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, a firma oggi del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. L'offensiva delle autorità di vigilanza internazionale, soprattutto delle autorità antitrust, sui movimenti dei grandi colossi del web, i nuovi protagonisti della new economy, sia in campo finanziario che soprattutto in campo delle regole della competizione, continua senza sosta. Ancora una volta è Facebook, il colosso dei social network, che proprio pochi giorni fa era stato condannato dal nostro antitrust, quello italiano, a una sanzione di 3 milioni di euro per i legami fra WhatsApp e Messenger, è stato condannato questa volta dalla Commissione Europea a una maxi sanzione di 110 milioni di euro, non per aver dato informazioni ingannevoli ai consumatori, ma in questo caso alla stessa Commissione Antitrust Europea, quando nel 2014 acquistò WhatsApp. La multa è una delle più alte in questo settore e conferma la linea dura delle autorità, soprattutto europee, nei confronti di queste società che, con un piede in America e un piede in Europa, violano spesso le regole, muovendosi proprio nei meandri dei buchi legislativi. Da un punto di vista finanziario, dicevamo, la multa non è elevata per una società che nel 2016 ha messo a segno profitti netti per 10,2 miliardi. In un'ottica politica, però, la decisione è notevole. Bruxelles ha voluto avvertire Facebook, ma tutte le società del settore, che sarà sempre più attenta ai numeri, alle cifre e alle informazioni che queste danno nel momento di comprare un concorrente. Concorrente che può cambiare non soltanto il corso dell'impresa, ma soprattutto le regole del gioco con i consumatori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, ancora una notizia, o meglio due. La prima, in breve, il delegato del governo a trattare per l'Italia il dopo Brexit ha confermato che l'Italia si candida solo per l'Agenzia del Farmaco e quindi non per l'autorità, per altre autorità di carattere finanziario, e quindi l'autorità bancaria europea in primis, che andrà via da Londra. Lo ha così chiarito appunto Enzo Moavero Milanesi ai giornalisti, che insomma, la candidatura italiana e la chance italiana riguarderà solo l'Agenzia del Farmaco. Dicevamo 349-238-6666 per sms e whatsapp. Oggi torniamo su Alitalia, dopo che è stato pubblicato ieri il bando. I commissari dell'Italia, ricevuto l'autorizzazione del Ministero, hanno pubblicato infatti ieri il bando che dà tempo ai soggetti interessati fino al 5 giugno per presentare le manifestazioni di interesse. Ma oggi molto si è parlato di Alitalia perché erano in audizione alla Camera i tre commissari. E allora iniziamo da Gubitosi, uno dei tre commissari, Luigi Gubitosi, che ha detto insomma, con i 600 milioni di prestito ponte del governo non solo faremo la stagione estiva ma vogliamo completare anche l'inverno, cioè vogliamo scavallare l'anno, un'informazione importante anche e soprattutto per i clienti dell'Italia, per chi si appresta o ha intenzione di comprare un biglietto all'Italia. I 600 milioni quanto basteranno? Ma noi stiamo lavorando appunto ovviamente per fare la stagione, la summer che è praticamente iniziata, e poi vogliamo anche completare tutta la winter, quindi arrivare a scavallare l'anno, e pensiamo che questo sia possibile se otterremo i risparmi che ci stiamo accingendo a negoziare appunto sui leasing, sulle manutenzioni e così via, su tutta la struttura di costi. Io ritengo che quando si c'è in una società, ancorché l'obiettivo sia di venderla in tempi ragionevolmente brevi, bisogna comportarsi come se ci stesse 20 anni, perché altrimenti uno la lascia andare pensando che poi la vende, per cui noi continueremo a gestire totalmente in continuità, e in realtà stiamo facendo i primi studi anche sulla summer del 2018, quindi magari lasceremo qualcosa in eredità a qualcuno che potrà poi deciderne che uso farne, ma comunque non andiamo in un'ottica di breve, cerchiamo appunto di andare in un'ottica di totale continuità. E sempre sull'Alitalia, Gubitosi, ricordo, stiamo lavorando sui ricavi e non solo sui costi. Andiamo avanti con il rafforzamento di tutta la prima fila manageriale. Il piano che presenteremo, invece, ha specificato Stefano Paleari, un altro dei tre commissari, il piano che presenteremo sarà finalizzato alla continuità dell'azienda, ma discontinuo rispetto al passato. Il nostro primo compito è stato quello di assicurare la continuità operativa, quindi di avviare un dialogo con tutti i nostri interlocutori, sia interni che esterni al sistema aziendale. In seconda battuta abbiamo iniziato a fare una valutazione dei piani esistenti preparati dalla compagnia, in particolare negli ultimi 6 mesi, al fine di individuare quali fossero gli elementi sui quali quei piani si fondavano e per verificare gli elementi che possono essere nuovamente di utilità per la valutazione, pur all'interno di una situazione che ovviamente si è determinata come discontinua rispetto a quella precedente. Entro la fine del mese di giugno completeremo questa valutazione e parallelamente ci avvieremo a preparare un piano che contiamo di rendere disponibile per la fine di luglio. Stiamo valutando prima di tutto il posizionamento della compagnia all'interno del mercato del trasporto aereo. Stiamo valutando il posizionamento di mercato, i segmenti sui quali la compagnia è impegnata, i servizi che eroga. In secondo luogo, stiamo esaminando la struttura dei costi della compagnia, partendo da quelli sui quali siamo intervenuti a favore della compagnia, relativi ai contratti derivati sul costo del carburante, che consentono di non essere penalizzati dal fatto che il carburante oggi ha un costo diverso da quello che aveva nel momento nel quale sono stati stipulati. Allora, andiamo col primo tema, l'information technology applicata ai mercati finanziari. Di questo si parla nell'IT Forum, nella 18ª edizione dell'IT Forum. Come sempre, due notizie. C'è stato già dall'anno scorso un grosso risveglio di quello che è il risparmio gestito, nel senso che quello a cui abbiamo assistito, che ha varie spiegazioni, è sostanzialmente una crescita delle cosiddette masse gestite, i soldi che gli italiani danno ai professionisti del risparmio gestito, anche perché ci si fida meno di alcuni prodotti bancari e anche ben vedere con quello che è successo in alcuni casi in questi anni. Quindi c'è stato un ritorno non alla borsa in senso diretto, ma a chi media l'investimento per te attraverso l'industria del risparmio gestito. Questo è un film e un fronte. Qui invece a Rimini si ritrovano ogni anno i risparmiatori che tendono o a investire in maniera diretta attraverso il trading online puro, o comunque a utilizzare tutto un insieme di strumenti dell'information technology per investire. Andrea Gennai, per il Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Il Sole 24 Ore ha pubblicato anche un'indagine proprio sul trading online che andò molto in voga, fu molto in voga soprattutto durante la bolla della New Economy, prima dello scoppio della bolla. Ma l'indagine che avete presentato obiettivamente ha dei dati anche sorprendenti per alcuni punti di vista, a partire da quanti hanno dichiarato che con il trading online hanno guadagnato. Sì, l'indagine che abbiamo anticipato su Plus, che è stata realizzata da Anna Ponziani, che è un po' l'analista che dal 2000 segue questo settore, quindi la più esperta del settore, evidenzia che coloro che vengono a Rimini, sono 700 persone circa interpellate, dichiarano nel 73% dei casi di guadagnare soldi. Oggettivamente è un dato interessante, perché se pensiamo che chi si avvicina al trading 9 volte su 10 perde soldi, quindi sicuramente chi viene qua è un pubblico molto evoluto, ha messo a punto delle tecniche, però insomma fa un po' specie che solo il 20% come si può dire non guadagnano. C'è da dire che la stragrande maggioranza guadagna tra l'1 e il 5% del proprio patrimonio, sono somme quindi abbastanza contenute, e se probabilmente andassimo a fare un'analisi anche delle commissioni, dei costi eccetera eccetera, probabilmente dietro questo 73% in realtà si nasconderebbe una percentuale inferiore. Comunque è interessante di quella che è un po' la tendenza. A 17 anni dallo scoppio della bolla il trading è vivo e vegeto, le presenze qua lo accertano, i trader si sono evoluti, si sono specializzati e adottano tecniche sempre più come si può dire specifiche, e comunque insomma è un mondo che se la borsa sale o scende sopravvive. Ecco, l'altro elemento interessante è come operano, cioè perché ci sono tante parole che vengono evocate in questi giorni, una di queste appunto è il robot advisor, cioè il robot che deve farti da consigliere su come investire, e l'altro appunto è il fintech. Allora, si ha consapevolezza o si usano così per riempirsi la bocca perché sono di moda? Ecco, forse la seconda che hai detto, nel senso che dall'indagine emerge che ancora il fintech è un termine che non è entrato diciamo nell'uso e nella comprensione di questi trader. C'è da dire che chi fa il trader è anche una persona molto orgogliosa dei propri mezzi e dei propri, diciamo, delle proprie modalità di investimento, quindi diciamo ama elaborare per conto suo le proprie strategie, ama usare le piattaforme autonomamente e devo dire appunto che ancora non è chiaro come questa evoluzione tecnologica potrà impattare su questo mondo. Alla risposta su quelle che sono le aspettative, la stragrande maggioranza dice che il principale impatto concernerà l'utilizzo dei big data, cioè dei flussi numerevoli di dati che abbiamo a disposizione per sviluppare le strategie di trading. Ecco, si ritorna al punto centrale, poi ognuno utilizza questi dati al meglio per sviluppare propri modelli e propri approcci al mercato. Allora, sì, vedo molti messaggi su questo. Sì, io su Big Data ho qualche perplessità, cioè tutti parlano di questi grandi dati, che vuol dire sostanzialmente tutto quello che noi forniamo alla rete attraverso i nostri acquisti, le nostre ricerche, le nostre navigazioni, che dovrebbero permettere di profilare molto bene chi sono io. A parte che ci sono dei limiti, per fortuna, anche di privacy, cioè non è che puoi prendere quello che faccio io e utilizzarlo per profilarmi. Poi ho la sensazione che se ne parli molto, ma che ancora si sia a quello che gli americani chiamano net fishing, cioè una raccolta come rete da pesca di tutto, no? E una paranza, ma di cui in realtà non hai ben capito cosa ti serve, che cosa non ti serve. Infatti si parla di aspettative, giustamente, ecco. Come dici tu, vedremo, si fa un gran parlare di questi termini, fintech, big data, ancora non c'è un utilizzo concreto da parte di chi fa trading. Allora, grazie intanto a Andrea Gennai per averci presentato la ricerca del Sole 24, realizzata da Sole 24 Ore qui all'IT Forum. Dopo il meteo e la pubblicità invece con Matteo Arpe parleremo di che cosa abbia voluto dire per lui passare da la più tradizionale delle banche Capitalia a una banca che si chiama volutamente This is not a bank, questa non è una banca e opera solo online. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vi presenta, state ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management, Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dall'IT Forum di Rimini. Dunque, dicevamo che tra i temi più discussi c'è, più che l'ingresso, la dominanza del digitale anche nei servizi bancari tradizionali. Quindi in questo caso non stiamo parlando solo di chi fa trading online, di chi va a fare investimenti in borsa o con prodotti e strumenti finanziari, ma della classica attività bancaria, e si parla in questi casi di effetto disruptive, cioè non solo distruttivo ma diciamo rivoluzionario. Vorrei parlare appunto con chi ha la doppia esperienza di aver fatto banca tradizionale fino ai massimi vertici di Capitalia e poi aver fondato una banca che adesso si chiama Tinava, cioè This is not a bank. Matteo Arpe, buonasera. Buonasera, grazie all'invito. Molto si ragiona, lo scenario viene visto in alcuni casi in maniera apocalittica, in altri in maniera invece un pochino più integrata. La prima differenza che lei ha notato nel passato, un modello stra-tradizionale come Capitalia, quindi dimensionalmente ma anche nell'organizzazione interna rispetto a un modello che avete chiamato volutamente This is not a bank, poi cerchiamo di capire anche perché. Le differenze sono importanti, nel senso che il sistema bancario tradizionale negli ultimi vent'anni ha progressivamente perso qualsiasi peso sul sistema dei pagamenti. Oggi tutto il fintech mondiale invece ha un primato e si sta concentrando su nuove soluzioni dei sistemi di pagamento. Questo vuol dire la competizione, in parole povere, sulla clientela più giovane, nel senso che le grandi banche tradizionali rimangono diciamo più con dei clienti più avanti nell'età, il fintech invece si concentra sui sistemi di pagamenti sui più giovani. Tinaba, che non è, diciamo l'accento è Tinaba, si rivolge sia al pubblico dei molto giovani, quindi dai 12 anni in su, quindi arrivando fino al pubblico normale bancario. La differenza rispetto ad altre esperienze è che noi, forse proprio per il mio passato, è un fintech che si connette alle banche, cioè Tinaba è This is not a bank, ma si connette in una banca, uno in ogni paese, quindi in Germania, in Francia, in Spagna avremo una banca partner e quindi parte da un servizio bancario e quindi si connette a una banca. Che poi arriviamo alle banche in questo momento, ma che cosa resterà delle banche tradizionali o per come le abbiamo conosciute? Non domani, non fra un anno, ma come tendenza? Perché lei ricordava che voi vi rivolgete al pubblico giovane. Pubblico giovane che ha 30 anni adesso ha poco capitale, come tutti i giovani. Certo. Però ha delle abitudini già ben strutturate, quindi non va allo sportello, se poi ne hai 20 manco sai dov'è lo sportello. Tutte le operazioni le fa online. Non è disposto a pagare prezzi per operazioni, diciamo, che sono algoritmiche, chiamiamole così. Non è disposto a pagare commissioni di questo genere e infatti tutti gli operatori superano a destra, diciamo, quella che era l'offerta tradizionale del mondo bancario. Verrebbe da dire che alla banca tradizionale, resterà sostanzialmente il private banking, cioè investimenti, partecipazioni societarie in vari settori come maggioranza o come quote minoritarie, e la parte che gli inglesi chiamano di wealth management, cioè la gestione dei patrimoni, della ricchezza, di chi ha i patrimoni, l'asset allocation, la comprensione del rischio e quindi poi l'investimento dei patrimoni. Questo è l'unico futuro, private banking e wealth management? No, nella mia opinione no, nel senso che questi settori sono nicchie che si rivolgono a dei clienti diciamo più facoltosi normalmente, quindi che tra l'altro rifuggono un po' con la tecnologia, quindi non alla grande utenza. Sicuramente noi abbiamo immaginato con Tinaba è l'idea di offrire prodotti di private banking che oggi sono riservati soltanto ai clienti molto ricchi a tutti, quindi secondo me il connubio fra tecnologia, nuove forme di tecnologia col sistema bancario tradizionale è quello di rendere accessibili prodotti o funzioni oggi inaccessibili agli utenti, quindi sia ai più giovani ma sia anche a quelli di più alta età. Ripeto, come Tinaba oggi noi creiamo la possibilità di avere casse comuni con migliaia di persone o di condividere i soldi, che sono, diciamo, concetti che sono impossibili per una logica bancaria o anche una logica transazionale tradizionale. E questo è possibile perché la tecnologia si connette a una banca e non a una carta di credito. Quindi il sistema bancario, con tutti, diciamo, i problemi che in questo periodo vive di una tempesta perfetta, effettivamente però è, se vogliamo, il nucleo, il centro di una possibile rivoluzione tecnologica molto importante, che va oltre quella che noi conosciamo. Su questo, Arpe, quali sono gli errori che però il mondo, per non essere troppo assolutori, il mondo bancario tradizionale sta compiendo? Noi ci occupiamo di banche quasi quotidianamente per il tema dei non performing loans, quindi delle sofferenze bancarie, di come riusciranno a smaltire, diciamo, queste sofferenze in pancia. Per alcune crisi specifiche, penso Monte dei Paschi, le Venete, le quattro banche famose, poi vi tornerò, e per fenomeni di aggregazione che hanno attraversato e stanno attraversando il mondo delle popolari. Sono tutti temi molto presenti ma molto poco, diciamo, di prospettiva. La critica che arriva è ancora in una incapacità delle volte di fare consulenza anche sui prestiti, quindi sui crediti da erogare. Ma lei l'errore che vede fare, diciamo, più comunemente al mondo bancario in questo momento qual è? Troppo presente? Inteso come tempo presente? Ma avendo lavorato 30 anni in banca, devo dire, ho una visione interna al sistema bancario. Il primo punto è che quando tutto il sistema mondiale del credito, dagli Stati Uniti fino all'est, compie gli stessi errori nello stesso momento, pur essendo uno dei settori più vigilati al mondo, secondo me è un tema strutturale, non è un tema congiunturale, quindi è inutile guardare cosa è successo oggi. Il sistema bancario ha vissuto e vive una fase di profonda trasformazione dovuta al fatto che non si rivolge più ai più giovani, cioè i giovani che vivono di transazionale e quindi vivono i sistemi di pagamento non vanno più in banca. I sistemi di pagamento non sono bancari, sono le carte di credito sostanzialmente, che è un problema che ha lo stesso problema dei giornali, editoria, cioè una maggiore difficoltà a interrelarsi, a parlare il linguaggio dei giovani, che vanno più di sintesi che di analisi. Il sistema bancario vive questo insieme ad altri problemi, che sono una situazione di tassi sostanzialmente bassissimi a zero, quindi una riduzione dei ricavi, una qualità del credito in peggioramento. Quindi devo dire, il sistema bancario ha fatto tantissimi errori, però ripeto, nel mondo, nell'inizio degli anni 2000, il mantra era quello della crescita dimensionale. Come lei sa, quando io mi opposi a una crescita dimensionale del mio gruppo bancario, la prima volta ce la feci, la seconda ho perso e fui invitato a uscire dalla banca, ma proprio perché non credevo in queste aggregazioni bancarie. Ricordo che la prima convention che fu fatta della nuova realtà si chiamava Originate and Distribute, cioè quello che poi è stato riconosciuto come una delle cause mondiali della crisi. Quindi all'epoca quello che oggi vediamo come cause conclamate di buon senso, tali non erano evidentemente, e chi evidentemente non voleva seguire queste, diciamo, queste mode aveva una vita difficile. Ripeto, quindi oggi il sistema bancario deve sicuramente guardare al futuro, ma guardare al futuro del cliente, cioè qual è il nuovo cliente, come fa a parlare con i giovani, esattamente come tanti altri settori deve farlo. La tecnologia e chi è fuori dal sistema bancario, che sono i sistemi transazionali, oggi hanno più credibilità o più forza a parlare col cliente. Secondo me, diciamo, sapendo che la banca è un mestiere, devo dire, che ha 500 anni di vita, quindi scusi, anche oggi si parla di banca e finanza con una certa commistione, no? Come se fossero due cose uguali, ma le banche hanno 5 secoli di attività, la finanza ha 60 anni di vita, per cui è ovvio che non può essere la stessa cosa. Io penso che il sistema bancario, che vuol dire quel sistema che trasferisce i capitali dall'unità in surplus a quelli in deficit, come un sistema cardiovascolare, sia importantissimo. E quindi se sposa alle nuove tecnologie, se è capace di parlare con i più giovani, oltre che con, diciamo, la normale clientela, ha molto da dire in futuro. Resta il fatto, Arpe, però, che in questo momento i margini si fanno più sulle transazioni, cioè sul fatto che io usi la rete per pagare un oggetto, comprare un oggetto, e quindi il margine del servizio che mi dai, che non sui depositi, cioè sulla massa amministrata, nel senso che il dato tra quello che ricava il mondo bancario, dal mondo, diciamo, finanziario per essere più precisi, dalla transazione di soldi, dal fatto che dall'utente A all'utente B uso il canale, diciamo, di circuito interbancario per pagare, è più alto da quanto ricava dalla massa amministrata. Sì, si vive un paradosso, per cui se stimiamo che il capitale nel mondo, il 3%, il 5% venga ogni anno transato, gestire questo 3-5% del capitale mondiale nei suoi pagamenti ha più reddito che gestire invece il 95-97% che invece è quello che fa le banche. Cioè il sistema transazionale è capace di catturare una quota di reddito maggiore pur gestendo una quota infinitamente più bassa. Questo è dovuto anche al fatto che i costi del sistema bancario, che è soggetto a tutta una serie di compliance e di normativa, è decisamente superiore a chi fa soltanto transazioni. Come abbiamo detto prima, il sistema bancario fino a pochi decenni fa aveva il monopolio dei sistemi di pagamenti, oggi è totalmente estraneo il sistema di pagamenti, quindi oggi livello di assegni, tutto quello che un tempo era sistema di pagamenti non è più bancario. Quindi oggi quando uno parla della carta di credito, prima si parlava, c'è un intervento di qualcuno che diceva che chiamando la banca per la carta di credito, ma la banca ha poco a vedere con la carta di credito, sì, può essere un issuer, però è un sistema di pagamento. Il tema è un tema importantissimo, i giovani sono più interessati alla transazionalità che alla gestione, che invece è un'attività elettiva della banca e al finanziamento, e la banca secondo me deve invece riorientarsi a guardare verso questo novulo, questi cui utenti. Oggi le grandi capitalizzazioni, le grandi società al mondo sono tutte società che guardano ai giovani, incredibilmente. Uno pensa in questo momento ai giganti come Google o altro, nessuno ha mai pagato Google, però hanno una fonte di ricavi, parla con i giovani. Allora, la battuta nella conclusione è facile: mentre nel resto del mondo sono le banche che guardano ai giovani, da noi sono i giovani o le giovani figlie che guardano le banche. Lei sa dove voglio arrivare, mi riferisco all'ex ministro Boschi, attuale sottosegretario. In tutto questo, adesso non voglio tornare sulle polemiche di questi giorni, però stride un po', mettiamola così, essere qui all'IT Forum, dove ragioni di digitale, di futuro, di cosa sarà il servizio, diciamo, finanziario, bancario per i giovani, quindi anche per noi, quello che resterà della banca e quello che invece saranno i nuovi soggetti, e poi precipitare il tutto, diciamo, alle polemiche di questi giorni. Però un'opinione gliela chiedo, ossia, è corretto che il governo si occupi di banche in crisi, e B, però è corretto che, ammesso non concesso, fosse confermato, che se ne occupi chi ha un conflitto di interesse? Ma è una domanda, devo dire, qui voglio rispondere con molta attenzione e con molto rispetto, nel senso che io non ho vissuto, nel senso che la mia presenza nelle grandi banche è finita nel 2007, oggi il gruppo Sator che io ho fondato ha il controllo di due banche, ma sono due banche, una private e l'altra extra banca, che è una banca per l'estero. Fino al 2007 qualche pressione politica l'avrei ricevuta anche lei? No, beh, sulla pressione politica io penso che la politica in generale, intesa come cosa, accezione molto positiva, si debba occupare dei problemi del paese, anzi questo è quello per cui evidentemente si devono muovere. Quindi il problema secondo me non è l'interesse, è se l'interesse poi si trasforma in pressioni o in altre forme. Però il fatto che in qualsiasi paese dell'Europa il governo abbia a cuore i problemi del paese, come ha avuto cuore anche sull'Ilva o altre forme come l'Italia, nessuno oggi si stupisce. Quindi io non entro nella polemica, quindi non so quali sono stati i contatti intervenuti, secondo me vanno ben compresi, no? Prima di dare dei giudizi, e ripeto, io non conosco la vicenda. Quindi al di là della vicenda, però lei dice, insomma, normale che la politica, poi il problema qui è chi lo fa, nel senso che se lo fa un ministro che è un padre vicepresidente è diverso, ma è normale, al di là di questo, che la politica si occupi anche del sistema. Le faccio un esempio che abbiamo vissuto, diciamo, noi in questi mesi. Noi abbiamo ricevuto come TINAB un invito da un governo europeo per andare a presentare la nostra azienda insieme ad altri, e il governo ha voluto esprimere le proprie politiche industriali dicendo: noi vediamo in un settore che è quello del fintech per noi un importante sbocco, per cui abbiamo deciso di investire. Quindi la politica economica, che quindi è una cosa di altissimo livello secondo me, certo, è evidentemente appannaggio del governo e dovrebbe essere proprio funzionale a risolvere i problemi e a stimolare gli investimenti in tanti settori elettivi per il paese. Ripeto, in questi termini secondo me è normale che la politica si interessi in questi termini. Grazie a Matteo Arpe, appunto fondatore anche di TINAB, così lo dico correttamente. Grazie mille. Sì, rispondo in questo modo anche a molti sms, insomma, la posizione di Arpe mi sembra chiara, la nostra l'abbiamo ripetuta fin dall'inizio, la vicenda Boschi, quest'ultima, cioè nulla di strano, non facciamo le mezze vergini che il governo si interessi di una banca perché la banca ha un valore sistemico, almeno in quel territorio, però chi lo fa deve avere il ruolo per farlo e non essere in conflitto di interessi, e questo è poi il quibus della vicenda, non il fatto che il governo si sia interessato. 349-238-6666 per sms, whatsapp, traffico, poi la borsa, e andiamo poi anche sui dati sulla disoccupazione. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Minuti e abbiamo un minuto per introdurre la borsa e poi il resto lo faremo dopo il GR24. Invariata Milano oggi, abbiamo ancora 30 secondi, mi fanno segno, adesso l'ho capito, però Parigi meno 0,50, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,90, Dow Jones più 0,14. Dopo GR24 commenteremo la borsa. Intanto saluto e ringrazio Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. E parleremo di Fiat Chrysler, quindi delle preoccupazioni sulle inchieste europee e americane, di Telecom Italia un po' di realizzi, e invece appunto Banco BPM e Fineco Bank, bene, 2,5 Banco BPM, 2,1 Fineco Bank, invece il peggiore Fiat, tra quelle maggiore capitalizzazione, ha perso il 3,11%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, GR24 prima. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta qui dalla 18ª edizione dell'International dell'Innovation and Information Technology Forum di Rimini, anche perché riguarda appunto mercati e investimento digitale nei mercati, come operare in borsa, negli investimenti attraverso gli strumenti digitali. Ne abbiamo parlato ampiamente nella prima ora del programma. Stavamo parlando invece prima del GR24 dei mercati veri e propri. Milano, dicevamo, con Eleonora Micheli, invariata, meno 0,50 a Parigi, meno 0,30 a Francoforte, meno 0,90 a Londra, invariata in questo momento anche l'America sul Dow Jones, euro a quota 1,11. Allora, Eleonora, partiamo da Fiat Chrysler, meno 3,11% su un fronte, invece Banco BPM più 2,5%. Sì, appunto sul finale Milano è migliorata, ma non è migliorata FCA, anche se va detto che ha dimezzato le perdite, visto che durante della seduta era arrivata a cedere oltre il 6%, e dopo peraltro il meno 4,6% accusato la vigilia, quando è emerso che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, accusato di non aver svolto controlli adeguati sulla 500X prodotta appunto da FCA. Ovviamente la notizia continua a pesare sulle azioni e in più, come se non bastasse, dagli Stati Uniti sono rimbalzate anche voci su una possibile stretta del governo americano. Pare che il Dipartimento di Giustizia americano sia pronto a far causa ad FCA sempre in merito alle emissioni, nel caso in cui non sia raggiunto un accordo che allinei la stessa FCA alle altre case automobilistiche in tema sempre di rilevazioni di gas nocivi. E quindi ovviamente questo va a pesare sulle azioni, anche perché gli esperti già mettono in conto che se non sarà raggiunto un accordo la multa nei confronti di FCA potrebbe arrivare anche oltre 4 miliardi di dollari. E questo per quello che riguarda il titolo che peggio si è comportato oggi in borsa tra quelle maggiore capitalizzazione. Invece Banco BPM, dicevamo, più 2,5, Finecobank più 2,1, UX Net-a-Porter più 1,60, come Ferrari L'1,30 l'ha guadagnato invece Italgas, l'1% Luxottica, e quindi bene soprattutto BPM e Finecobank. Sì, BPM, Banco BPM è uno dei titoli che è rimbalzato per primo e che ha sostenuto Piazza Affari. Tra le banche evidentemente gli investitori scommettono infatti su Banco BPM e quindi sul miglioramento dei conti. Per contro continua a soffrire ad esempio BPER, che da quando ha pubblicato la trimestrale ha imboccato la strada del ribasso e non si è più ripresa, anche oggi ha lasciato sul parterre l'1,16%. Ancora invece su tra chi ha perso, ricordavamo anche Telecom Italia meno 2,60, qui però Telecom viene da un 10% guadagnato da inizio mese. Certo che pesa ancora l'incertezza sulla posizione o sulla decisione che prenderà Vivendi in merito alla sua posizione di maggioranza relativa in Telecom e minoranza di blocco in Mediaset. Eh sì, infatti si apre adesso un periodo caldo, diciamo, per Telecom Italia. A fine mese, a fine maggio, si deve pronunciare l'Europa, Bruxelles, sulla posizione di Vivendi, che è diventato l'azionista che controlla di fatto la società dopo che ha nominato 10 su 15 dei membri del consiglio di amministrazione. Pare che, secondo indiscrezioni, tra l'altro il presidente della società Giuseppe Recchi convocherà in anticipo il CDA proprio per analizzare anche l'esito della posizione di Bruxelles, CDA che dovrebbe essere convocato dunque subito il 1° di giugno. La stessa Vivendi nel mese di giugno dovrà indicare cosa intende fare per ottemperare alla legge Gasparri, che vieta una concentrazione nel settore dei media e delle TLC. Secondo indiscrezioni si va verso l'ipotesi di un congelamento dei voti di Mediaset, però è tutto da vedere se questa soluzione sarà accettata e poi se sarà quella che effettivamente sarà presentata da Vivendi. Quindi nel dubbio di tutte queste incertezze, alcuni investitori evidentemente hanno deciso di portare a casa i guadagni realizzati con Telecom Italia, che dal 3 di maggio, giorno in cui la società ha pubblicato la trimestrale superiore alle attese, ha messo a segno un progresso pari a circa il 10%. Ancora andiamo su altri titoli, andiamo direttamente sui migliori e peggiori a questo punto. Lucigiana Media Group più 9%, Ecosantec più 8,40%, Invest più 8%, Giglio Group più 7,30%. Per quello che riguarda invece chi è più ha perso, Energy Lab meno 11,30%, Poligrafici Printing meno 5,60%, Elica meno 4,5%. Juventus meno 4,24%, nonostante abbia vinto la Coppa Italia, il titolo perde, faccio notare, anche se l'Inimpre Giro perde il 4,14%, faccio notare che oggi è una giornata importantissima per l'Hellas Verona, ma qui sono in conflitto di interesse, la partita è a Cesena, non c'entra nulla con la borsa, ma non riuscivo a non dirlo. Eleonora invece, tra i titoli a maggiore capitalizzazione, ebbene anche Hux & Porter più 1,60%, Ferrari 1,60%, Italgas più 1,30%, Luxottica e Generali più 1%, invece debolezze su Saipem meno 1,50%, Unipolsai meno 1,30%, Biperbank meno 1,1%, Prismian meno 1%, e più al palo gli altri titoli di carattere bancario. Juventus. Sì, ovviamente la Juventus inizialmente aveva provato a salire, ma poi ovviamente si tratta di prese di beneficio dopo la vittoria di ieri, e quindi sul finale ha perso oltre il 4%, tanto a questo punto gli investitori sono presi a comprendere poi come andrà effettivamente la partita di Champions League, quella che economicamente porterà più soldi nelle casse della società sportiva. Ancora per quello che riguarda, mi chiedete, l'avevo dato sugli Stati Uniti, no, non ci sono reazioni in questo momento alla notizia, ancora tutta da chiarire. Lo dico a chi mi sta scrivendo, perché ha ascoltato nella parte finale del GR24 la notizia di un'auto che avrebbe investito i pedoni a alta velocità a Times Square, quindi a New York. È tutto da chiarire, vi daremo appunto aggiornamenti appena li avremo, ma non vediamo alcuna, rispondo ad alcuni ascoltatori, alcuna reazione sul Dow Jones, né devo dire un Dow Jones particolarmente preoccupato dalle polemiche, anche se adesso mi sembra che stiano un po' rientrando sul rapporto tra Trump e Mosca. Grazie intanto all'onorevole Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Andiamo sul traffico e poi parliamo dei dati INPS sui contratti, i primi tre mesi del 2017, restano in attivo, o quindi la differenza tra nuovi contratti a tempo indeterminato e contratti invece chiusi resta positiva, ma si è ridotta moltissimo rispetto ai primi tre mesi del 2016 e a maggior ragione rispetto ai primi tre mesi del 2015. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Ultima parte di Focus Economia in diretta qui da Rimini. Allora, al di là delle polemiche che vedo già circolare su WhatsApp e SMS, il dato è, e non è inutile che scriviate si sta arrampicando sugli specchi, io vi leggo il dato: nei primi tre mesi del 2017 sono stati attivati 400.000 contratti a tempo indeterminato, nello stesso 398.866, la fonte l'INPS. Nello stesso periodo invece ne sono stati chiusi, cioè sono cessati, 381.000 contratti. Questo cosa vuol dire? Che il saldo, la differenza tra nuovi e invece quelli chiusi, resta positivo. E questo non è pro governo, pro opposizione, è il dato, 17.537. Detto questo, se si va a vedere qual era la differenza e il saldo positivo nei primi tre mesi del 2016, si scopre che era ben più alto, quasi tre volte, diciamo due volte e mezza, 41.000, ma soprattutto nei primi tre mesi del 2015, quando c'erano gli sgravi contributivi fino a 8.000 euro all'anno per ogni neo assunto a tempo indeterminato, lì si registrano 214.000, un saldo positivo di 214.000 contratti. Allora, fermo restando che a questo punto è ancora un elemento positivo, mi sembra che la tendenza sia quella di una riduzione sempre più, a meno che non cambi qualcosa, del saldo, fino a ipotizzare che possa arrivare anche a zero. Ma giro la domanda al professor Pietro Garibaldi, che insegna economia del lavoro ed è direttore del Collegio Carlo Alberto di Torino. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Che quello che ha detto è condivisibile, è corretto, la lettura mi sembra più giusta che si possa fare dai dati dell'INPS, che è importante sottolineare che sono dati che riguardano i plus, significativamente le attivazioni, le cessazioni di nuovi posti di lavoro. L'osservazione di fondo è ancora un mercato in espansione rispetto ai primi tre mesi del 2016, siamo ancora in saldo positivo. Tuttavia anche, possono dire ulteriori due cose. Innanzitutto che il saldo positivo è dovuto interamente, praticamente, ai contratti a termine. Su questo poi possiamo un attimino tornare. Quindi sostanzialmente sì, è vero che continua a aumentare, ma non sono più i contratti a tempo indeterminati, di nuovo con i crescenti, ma sono i contratti a termine del famoso decreto Poletti, e poi magari torniamo. Il secondo fenomeno è che se andiamo avanti di questa direzione, è molto probabile, come anticipava lei, che l'occupazione sia quasi ferma, perché ciò che non possiamo fare da Teams è l'analisi congiunturale. Noi possiamo soltanto paragonare rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, non possiamo paragonare rispetto agli ultimi tre mesi del 2016. Quindi sì, non ci dà, diciamo, è solito il problema dei dati che arrivano dal Ministero del Lavoro, dall'INPS, da quant'altro, e le tre fonti, però non ci dà l'andamento mese su mese, ma ci dice come è andata rispetto all'anno prima. Professore, resti con noi, perché in studio a Milano invece ci ha raggiunto Anna Migliorati, che temo abbia degli aggiornamenti, o meglio ha degli aggiornamenti su New York, che temo non positivi. Anna? Sì, infatti è una brutta notizia, perché c'è almeno un morto. È arrivata la conferma a Times Square a New York. Ricordiamo, un'auto si è gettata contro la folla di pedoni sul marciapiede. L'autista, il conducente, è già stato arrestato. Si parlava di 10 feriti, ma già le immagini ci facevano vedere un corpo di un uomo immobile a terra, cui soccorsi. Ebbene, a questo punto si parla di una vittima. L'autista, dicevamo, è stato fermato. Ovviamente ancora non si conosce né l'identità né quali potrebbero essere i motivi del gesto, ma già ti anticipo che nell'edizione delle 19 ci collegheremo anche con la redazione di New York del Sole 24 Ore, proprio per saperne di più. Beh, grazie intanto Anna Migliorati. Chiaramente dirimente sarà di là della vittima, speriamo che resti una sola, a capire le intenzioni dell'uomo. Diciamo che in questo periodo immaginare che si sia trattato di una tragica fatalità è l'ottimismo della volontà, ma insomma, con il pessimismo della ragione dobbiamo pensare ad altro. Staremo a vedere, e chiaramente avremo breaking news nel corso dei programmi e poi tutti gli aggiornamenti nel GR delle 19. Grazie di nuovo Anna Migliorati. Diciamo, professor Garibaldi, che i dati di oggi non ci danno l'andamento mese su mese, ma quello che però sembra emergere è che tutto l'effetto della decontribuzione è finito. E questo anche perché è finita la decontribuzione, ma è finito anche forse l'effetto del Jobs Act, che doveva durare anche oltre la decontribuzione. Questo non sono totalmente d'accordo. Prego. Non sono totalmente d'accordo in che modo? Perché è vero che il Jobs Act, inteso come è una legge che ha diverse dimensioni, ma parliamo del nuovo contratto delle crescenti. Sì. Indubbiamente oggi abbiamo molto più attività sul contratto a tempo determinato. È verissimo. Perché sostanzialmente quel decreto Poletti famoso del maggio 2014, pochi mesi dopo l'inizio del governo Renzi, fu di liberalizzare, come mai è stato fatto, il contratto a termine che oggi può essere rinnovato fino a 5 volte su 3 anni. Questo contratto così liberalizzato, ovviamente senza più incentivi, è la fonte, in un momento in cui la domanda un pochino stagna ed incerta, è la fonte ovvia per cui le imprese tendono a utilizzare. Tuttavia, da un lato sarebbe forse da mettere a posto. Io avevo sempre detto che con il contratto delle crescenti forse bisognerebbe un pochino rendere meno appetibile il contratto a termine. Questa è la mia personale opinione, se per caso vi interessasse. Al tempo stesso abbiamo un mercato che però, se guardiamo i flussi annuali, è a più assunzioni e più licenziamenti. E questo non è una cosa negativa, perché rendere il mercato più flessibile vuol dire in qualche modo avere più flussi. È un mercato in cui sostanzialmente si creano e si distruggono più posti di lavoro ed è più facile riallocare le opportunità attraverso il sistema produttivo. Quindi questa è una cosa positiva. Senta, un ultimo dato che vorrei commentare con lei, professor Garibaldi, riguarda invece la cassa integrazione. Tra l'altro sono aumentati anche i licenziamenti disciplinari nei primi tre mesi, più 14,6%, 18.349. Negli aziende sopra i 15 dipendenti l'aumento del 68% in due anni, e questo, se non ricordo male, deriva anche dal Jobs Act. Però c'è stato un crollo vero e proprio delle richieste di cassa integrazione nel mese di aprile, meno 38%, corretto, meno 60% sull'anno. Allora, qui le ipotesi sono banalmente due: o perché insomma le aziende in difficoltà hanno già messo in cassa integrazione, in alcuni casi hanno chiuso o licenziato, oppure perché invece, come dicono altri, il risveglio modesto, basso dell'economia, ma insomma che c'è, il più 0,6% acquisito di PIL, inizia a fermare l'emorragia della cassa integrazione. È giustissimo questo quello che dice, perché la cassa integrazione sostanzialmente le imprese hanno diritto a un tot di ore a seconda delle loro caratteristiche di integrazione, e prima di poter, se sono davvero in crisi, poter procedere a ulteriori sottrazioni, devono esaurire la cassa integrazione. Quindi il lato, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, è sostanzialmente questo posto, che le imprese hanno esaurito la cassa integrazione e magari nei prossimi mesi rischiano di dover ristrutturare in maniera più massiccia. Il lato positivo è che invece la cassa integrazione, che svolge il suo ruolo di polmone, in qualche modo è servito durante i mesi difficili. Adesso che c'è un bagliore di piccolina ripresina che vediamo anche nel PIL, sostanzialmente le imprese ne fanno meno uso. È difficile distinguere tra le due. Senz'altro l'aumento delle richieste di disoccupazione, di sussidi, che ci ha detto anche l'INPS in questi giorni, va nella direzione della prima. Un minimo di timore lo ho, ma non vogliamo essere troppo pessimisti, insomma, l'ottimismo, allora, della volontà teniamolo. Ecco, teniamo a meno quello. Allora, grazie al professor Pietro Garibaldi, è veramente tutto. Devo ringraziare, come sempre, anche tutta la struttura tecnica di Radio 24 qui a Rimini. Domani Deborah Rosciani sarà in diretta di nuovo, domani mattina con Cuore Denari. Noi invece saremo in diretta di nuovo da Milano, con la poco invidiabile classifica della settimana. Ho già visto delle anticipazioni non invidiabili. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.